Come va, come va? Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano. Più strano. Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario. Al contrario. Come mai, come mai? Dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai? Te lo dico io perché, o almeno ci provo. In questo mare io ci navigo, almeno ci nuoto. E per te io non faccio mai niente di giusto. Ma quando capirai che stai sbagliando tu, riderò di come sto. Fini di sta ceppa, state zitti in ascolto. Siete tutti frutti dello stesso raccolto. Ciò che non mi piace col mic lo racconto. Pagheremo tutti caro, senza lo sconto. Lo Stato ignora noi, e allora ci ignoriamo. Ogni sorta di sogno ce l'hanno pignorato. L'amore che ti danno è solo simulato. Siamo come su un gommone che hanno appena silurato. Come va, come va? Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano. Più strano. Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario. Al contrario. Come mai, come mai? Dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai? Va che se sei solo non fai manco un passo. Neanche per uno. Meno se ci riesci lo fai solo falso. Navighiamo nella crisi e nello spread in rialzo. La società è stare sopra chi odia e camminarci scalzo. Ciò che dici non lo sento, anche se ne dici tante. Il mondo è troppo freddo, lo vorrei febbricitante. Dimostra ciò che sei se ti dici grande. Dimostralo. Il mio massimo lo do ogni 16 barre. Scritto un altro mio pensiero, sono più leggero. Ogni mio pensiero è peso, adesso qualche chilo in meno. In senza meno. Un'opinione, sei uno zero. Zero. Se vivi per il di nero, non lo vedi, allora vedi tutto di come nero. Come va, come va? Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano. Più strano. Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario. Al contrario. Come mai, come mai? Dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai? Un altro stronzo tenta di alzare un altro muro. Hai fatto 30, allora fai 31. Se no zero futuro, spero e non spergiuro. In un futuro prossimo venturo che ci porti aria e ci consenta un respiro puro. Il problema mio è che la testa mia è portata via. Solo tasta me. Melodia, aria pura, utopia. Viaggio come un treno sulla ferrovia. La strada è ostruita come i polmoni con un'embolia. Seguimi nel mio pensiero come fosse un sentiero. Tranquillità, vieni qua, io in te ci spero. Spero ciò che penso, mica voglio fare il saggio. Ma ormai si guarda più l'iPhone del paesaggio. Come va, come va? Qui va male perché gira tutto in modo sempre più strano. Più strano. Come va, come va? Non so se è colpa nostra, ma qui tutto gira al contrario. Al contrario. Come mai, come mai? Dimmi se lo sai, spero che lo scoprirai. Come mai, come mai?